La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione dei 40 anni dello Statuto dei Lavoratori, che ha data 20 maggio 1970, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'entrata in vigore della legge numero 300, dal titolo Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratore, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Ospite ai nostri microfoni Marco Revelli, docente di scienze politiche dell'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Il 20 maggio di 40 anni fa, era il 1970, entrava in vigore la legge numero 300, dal titolo Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. È lo Statuto dei Lavoratori, una legge fondamentale, punto di passaggio di notevole portata economica e sociale, nata nel pieno della stagione delle rivendicazioni operaie e sindacali, approvata a pochi mesi dalla bomba di Piazza Fontana a Milano, che inaugurò nel nostro paese la tragica stagione della strategia della tensione. Un progetto che partiva da lontano, fin da quando all'inizio degli anni 50 del Novecento Giuseppe Di Vittorio, lo storico leader della CGIL, aveva invocato nuove norme a protezione del lavoro. Occorrerà attendere che il Paese completi l'epocale transizione da una struttura economico e sociale a carattere prevalentemente agricola a una realtà industriale a tutti gli effetti. Lo Statuto dei Lavoratori ebbe tre padri. Giacomo Brodolini, socialista, ex sindacalista, ministro del lavoro nel primo governo Rumor nel 1968. Gino Giugni, anch'egli socialista, espressione della società civile, presidente della commissione che formulò le norme. Carlo Donat-Cattin, democristiano di sinistra, ministro del lavoro, che portò prima al Senato, poi la Camera ad approvare la legge con l'astensione dei comunisti. Piena libertà di opinione, maggiori garanzie e tutele nei luoghi di lavoro, diritto di associazione e di attività sindacale, fino al controverso articolo 18 in materia di licenziamenti e reintegrazione del posto di lavoro, per finire con le norme sul collocamento. Lo Statuto dei Lavoratori venne considerato dai lavoratori e dal movimento sindacale un punto di svolta fondamentale. 40 anni fa era un'altra Italia, un paese che usciva dall'autunno caldo del 1969 e ancor prima era stato segnato dai movimenti del 68, studenti e operai a rivendicare più diritti, più tutele sul lavoro, una piena attuazione della Costituzione. Il giurista Gino Giugni, scomparso nell'ottobre dello scorso anno, definì lo Statuto dei Lavoratori il frutto di una felice congiunzione tra la cultura giuridica e il movimento di massa. Adolfo Braga, docente all'Università di Teramo e allievo a Bari di Gino Giugni, rievoca così la figura del giurista scomparso. Gino Giugni è un riformista vero perché ha prodotto concretamente delle riforme e le riforme che ha prodotto ha fatto il passo successivo, come coinvolgere sul piano culturale della conoscenza quelli che devono essere i protagonisti dell'attuazione delle riforme, perché uno dei limiti spesso nella cultura italiana è quello che attorno a quelle che vengono chiamate policy, politiche pubbliche, poi non c'è quella che è l'implementazione. Bene, Gino Giugni aveva in mente sempre il sistema nella sua interezza, la riforma doveva trovare effettiva attuazione, fino nei meccanismi più micro. Oggi, nel 40° anniversario, appare sempre più diffusa l'idea che lo Statuto dei Lavoratori abbia bisogno di un ammodernamento, perché nel frattempo il mondo del lavoro è profondamente mutato, nuove figure professionali vi hanno fatto ingresso in seguito all'esplodere delle nuove tecnologie, soprattutto informatiche e digitali, e avanza impetuoso da noi, come negli altri paesi, l'universo dei cosiddetti lavori atipici. Si fa strada, seppur tra polemiche e steccati ideologici, una riflessione che possa condurre a un adeguamento di misure approvate 40 anni fa in tutt'altro contesto, ferma restando la validità dell'impianto e della filosofia originari. Marco Revelli è docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale Amadeo Avogadro, scrittore, economista e sociologo, si è occupato dell'analisi dei processi produttivi con particolare attenzione al fordismo, al post-fordismo e al tema della globalizzazione. In un convegno che si è svolto lo scorso 20 maggio a Torino all'interno del Salone del Libro ha svolto un intervento proprio sul tema alle origini dello Statuto dei Lavoratori. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno. Le vorrei chiedere subito una cosa. Quando fu approvato nel maggio del 1970, lo Statuto dei Lavoratori passò quasi inosservato e in più, se non ricordo male, il Partito Comunista si astenne. Possiamo ricostruire insieme questo passaggio importante? Effettivamente così. Se io devo far ricorso alla mia memoria, allora ero a Torino, seguivo molto da vicino le vicende del conflitto sociale, in particolare alla Fiat. Quell'evento fu quasi ignorato. Eravamo a ridosso dell'autunno caldo, del gigantesco fenomeno di conflittualità sociale che aveva accumulato in pochissimi mesi una quantità di ore di sciopero superiore, incomparabile con qualsiasi altro periodo della nostra storia nazionale, e anche di fronte alle fabbriche quella conquista non appariva tale, appariva secondaria rispetto alla forza del movimento, quasi che il movimento fosse al di sopra della norma, della legge nell'affermare i diritti dei lavoratori. Il Partito Comunista effettivamente si astenne in Parlamento, così come il PSUP e anche le MSI, per ragioni opposte. Certo. Il Partito Comunista perché lo riteneva insufficiente e avrebbe richiesto la sua applicazione anche nelle unità produttive al di sotto dei 15 dipendenti, il PSUP perché riteneva che ci fosse il rischio che la norma imbrigliasse la forza sociale del movimento. Questa fu anche una delle motivazioni che diede allora Vittorio Foa, che una delle anime del PSUP e anche del sindacato italiano. Invece ci si accorse dopo dell'importanza di quell'evento. Questo fu presente, ben presente, quando il movimento rifluì e apparve con chiarezza l'importanza di una norma che tutelava e affermava alcuni principi. Primo principio fondamentale che fu allora appunto sottovalutato è il fatto che per la prima volta organicamente la legge affrontava la questione non della prestazione lavorativa, ma dei diritti del lavoratore, della soggettività dei lavoratori. Era l'applicazione della Costituzione a una realtà che era rimasta fino ad allora fuori dal raggio d'azione costituzionale, che era l'impresa, la fabbrica. Entrava la Costituzione varcava i confini della fabbrica assumendo la persona del lavoratore come titolare di diritti. Quella era una svolta epocale. Ecco, questa svolta epocale ormai sembra acquisita, però a distanza di 40 anni ci si chiede, si dibatte su possibili modifiche, poiché nel frattempo il mercato del lavoro è profondamente mutato. Ora, al di là della polemica più o meno ideologica sull'articolo 18, lei ritiene che ci siano dei margini, se possibile condivisi, per rivedere alcune delle norme portanti dello Statuto? Certo, 40 anni sono tanti per qualunque legge, e sono tantissimi per una legge che si applica a una realtà così mobile come quella del lavoro e della sua organizzazione. L'organizzazione del lavoro ha subito una trasformazione, un salto, noi diciamo in termini tecnici, di paradigma. Appunto, la fine del fordismo, il passaggio al post-fordismo comporta una rimodulazione dei rapporti di lavoro. Però quel principio io credo che sia irrinunciabile, il principio per cui l'individuo che lavora è portatore di un set di diritti irrinunciabili, che poi questi diritti debbano essere riadattati. Oggi quelle norme si applicano a una parte solo dei lavoratori, i lavoratori delle imprese, di quello che resta dell'impresa fordista. Il grande esercito del lavoro post-fordista, che è il lavoro, le nuove figure del lavoro, i lavori atipici e i lavoratori atipici, ne resta fuori. Bisognerebbe immaginare forme di tutela delle persone di questi lavoratori. Credo che su questo si possa applicare l'intelligenza creativa dei giuslavoristi. Si può dire che le conquiste dello statuto dei lavoratori a 40 anni di distanza siano, al di là poi delle polemiche e degli steccati ideologici, in qualche modo patrimonio comune di questo paese? Io me lo auguro, perché sono un'appendice della nostra Costituzione e rappresentano la formalizzazione di un punto alto della storia sociale italiana, anche di elevatissima conflittualità, ma di civile confronto, di civile conflitto che aveva trovato la propria composizione in una norma. Devo dire anche grazie a una figura straordinaria come quella di Giacomo Brodolini, che è stato il ministro che ha voluto con tutte le sue forze quella legge, non l'ha vista realizzata perché è morto per un tumore numerosi mesi prima, passando il testimone a un'altra figura di rilievo che è Gino Giugni, che ne ha continuato l'opera e l'ha completata. Ecco, quella condivisione sul terreno del diritto di principi fondamentali, io credo che possa essere patrimonio di tutti. Grazie professore. Grazie a voi.